arriva a far spendere fino a un centesimo o addirittura nulla per gli SMS, con una media di 6 centesimi, quando invece la media delle altre compagnie è di 10-15 centesimi. Ha scritto a Mr. Prezzi, che ha convocato tutti gli operatori, e Mr. Prezzi ha convocato anche lui per vedere davvero come si fa. Chiudo con un'ultima segnalazione, che è questa dal quotidiano nazionale Mussolini. Alessandra Mussolini, in questo caso in veste di nipote del Duce, Loreto, Piazzale Loreto a Milano, cambiamogli nome. Vorrebbe farlo diventare Piazzale Unità d'Italia. Dal punto di vista storico, dice la Mussolini, una piazza che ha diviso gli italiani sarebbe il simbolo dell'Unione della Repubblica. Anche dal punto di vista politico sarebbe un segnale significativo. Avere un luogo con un tale nome nella capitale del Nord. Ovviamente già si sono ribellati, parlando di offesa, per esempio, il leader dell'ANPI a Milano, Pizzinato. C'è solo lo spazio per la chiusura dedicata alla Gazzetta dello Sport. È un grande Valentino Rossi con le orecchie da asino. Vale l'asino che vola, in prima pagina. E voglio leggere il rompipallone di Gene Gnocchi, perché è sempre mitico. Dopo Italia-Georgia, Inzaghi è preoccupato per un posto nell'attacco del Milan. Dovrò vedermela con Huntelaar, Pato, Borriello, Calazze. Quello che ci ha fatto due sontuosi gol in Italia-Georgia. Ci fermiamo per la rassegna stampa. Ricordo, alle 8:15 soldi e dintorni, parleremo di portabilità dei telefoni cellulari e poi il sondaggio. Andate a votare dalle 8:30 alle 9 il virus A. 24 mattino. Le 8:18 minuti, eccoci ritornati a 24 mattino. Io vi ricordo che dalle 8:30 alle 9 faremo il nostro sondaggio. Tra l'altro, novità, potete anche chiamare all'800240024. La domanda è: influenza A, c'è troppo allarmismo? Sì o no? Ed è il momento dell'economia. Soldi e dintorni. Eccoci qua, palinsesto nuovo, facce vecchie. Facce vecchie fanno un buon brodo. Deborah Rochè, ma no, vecchia in quel senso, dai. Guarda, hai conoscendoti. Hanno capito tutti benissimo. Ma chi è quel bravo giornalista che abbiamo preso per fare la rassegna stampa? Uno nuovo? Deborah Rosciani, andiamo avanti. No, volevo ringraziarti perché in realtà mi hai dato l'assist questa mattina durante la rassegna stampa, segnalando questo curioso e molto interessante articolo sulla Stampa. Mi sono ripetuta, di questo ragazzo, di questo Davide Marrone, 26 anni, esatto, laureato in informatica alla Statale di Milano, che ha inventato Skebby, questo software per mandare SMS quasi a gratis, a bassissimo costo. Sarebbe davvero una rivoluzione per tutti noi utenti che facciamo un uso davvero spregiudicato, direi, almeno parlo per me, Alessandro. Non so tu quanti SMS mandi, ma voglio io, proprio insomma, sapere a chi li mandi. Guarda, tra amiche, sorelle, parenti e colleghi, insomma, ne mando parecchi. E allora questa mattina riparliamo di questo, il tema dei cellulari e delle tariffe è sempre caldo, soprattutto da quando si discute senza alcuna soluzione, a quanto pare, almeno fino a questo momento, del costo degli SMS, che è, per quello che riguarda il traffico in Italia, tra i più alti in Europa, anzi forse il più alto d'Europa. E proprio per questo la settimana scorsa c'è stato il richiamo di Mr. Prezzi, Roberto Sambuco, direttamente agli operatori convocati al Ministero dello Sviluppo Economico. Tra l'altro, c'è stata anche la convocazione di questo ragazzo, di questo Davide Marroni, che così è stato invitato a spiegare quale potrebbe essere questo sistema per inviare SMS gratis. Oggi il Sole 24 Ore affronta anche un altro aspetto, quello della portabilità, cioè il passaggio da un operatore ad un altro, che comporta spesso e volentieri una serie di difficoltà. Una di queste pare ce la siamo tolti di mezzo. Buongiorno a Marco Bulfon, esperto di telefonia mobile, ma non solo, anche di tanto altro, di altro consumo. Bulfon, benvenuto a Soldi e Dintorni. Buongiorno a lei, gli ascoltatori. Allora, quale sarebbe questa novità che è partita da agosto e in base alla quale adesso spostare il nostro abbonamento da un operatore ad un altro potrebbe essere meno complicato? Poi bisognerà vedere alla prova dei fatti. Beh, la novità è che ora si potrà chiedere non solo di trasferire il numero di telefono al nuovo operatore, ma si potrà chiedere anche il trasferimento del credito residuo che si ha su questo vecchio, su questo numero con il vecchio operatore. La ricarica avanzata, in sostanza. Esatto, proprio questo. Questa è una, direi, per così dire, una conquista che noi abbiamo ottenuto, dico noi, nel senso che le associazioni di consumatori hanno per lungo tempo, fin da quando la portabilità è stata introdotta in Italia, abbiamo chiesto che ci fosse anche questo servizio. Per certi aspetti, quindi siamo sicuramente soddisfatti di questo risultato, anche se riteniamo che ci siano, come dire, ancora delle sfumature che richiederebbero in qualche modo un'ulteriore precisazione. Sì, anche perché sì, voglio dire, a parte come dire, questa novità, in realtà fare il trasferimento non è per niente facile. In realtà, allora, teoricamente, una volta che scegliamo un nuovo operatore e decidiamo di abbandonare il vecchio Bullfone, quanto tempo deve intercorrere, appunto, in questo passaggio? Dunque, direi a questo punto si introducono due tempi. Il primo è il tempo che intercorre tra il momento in cui facciamo la richiesta e il vecchio numero viene trasferito sulla nuova SIM, cioè sul nuovo operatore. Questa operazione richiede circa una quindicina di giorni in generale. Dopodiché, se si è richiesto anche il trasferimento del credito, a questo punto, in base alla delibera dell'Agicom che ha stabilito questa nuova regola, dovrebbero passare al massimo 3 giorni, cioè gli operatori si dovrebbero impegnare entro 2 giorni a comunicare il credito e un terzo giorno per, diciamo così, implementare il credito sulla nuova SIM. Cosa che mi sembra anche abbastanza naturale avvenga, perché è difficile che, come dire, in qualità di utente di un vecchio numero decido di lasciare lì la carica residua. Certo, certo. Quindi l'operazione è molto verosimile che ottenga un certo successo di pubblico, nel senso che possa essere molto richiesta. Bisogna però, e peraltro in teoria i tempi dovrebbero essere piuttosto brevi, però poi bisogna vedere dal punto di vista operativo quanto gli operatori riescano effettivamente a, come dire, a soddisfare questi criteri. Direi che però per gli ascoltatori valga la pena di sottolineare un aspetto in particolare, e cioè in primo luogo che comunque questo trasferimento del credito non sarà gratuito, ma avrà un costo compreso tra un euro e un euro e 60 centesimi. C'è una commissione da pagare al vecchio operatore. Questa commissione verrà decurtata dal credito disponibile, quindi se ho un credito per esempio di 10 euro e mi verrà decurtato un euro e 60 da quel credito, quindi avrò mi verrà effettivamente applicato un credito di 9 o 8 e 40 centesimi. In secondo luogo, non viene trasferito tutto il credito, ma solo il credito, per così dire, pagato. Molti ascoltatori avranno probabilmente delle tariffe che prevedono una ricarica, che so, sulle chiamate effettuate, oppure sulle chiamate ricevute, oppure altri tipi di bonus, come vengono chiamati. Quindi ricariche omaggio accumulate con il vecchio gestore, in sostanza. Bravissima. In questi casi, questi bonus non vengono trasferiti nel nuovo credito. Questo quindi comporta che bisogna stare molto attenti nel momento in cui si vuole fare l'operazione, che si abbia una chiara contabilità di ciò che costituisce credito pagato e ciò che costituisce bonus. Quindi, per arrivare ad una conclusione concreta e pratica per i nostri ascoltatori, Bullfone, il suggerimento che possiamo dare è che se si decide di fare il trasferimento, il passaggio ad un altro operatore, magari esauriamo tutto il credito residuo in modo tale da non avere questi problemi, a meno che non se ne abbia veramente tanto accumulato. L'ideale sarebbe di consumarlo? Ma no, non direi questo. Direi che l'opportunità c'è, quindi vale la pena di sfruttarla. Eventualmente, piuttosto, vale la pena di verificare qual è la porzione bonus e quella cercare di consumarla. Questo sì, perché questa non ci verrà mai restituita. Benissimo. La questione invece degli SMS, ci rimane ancora un minutino di tempo. Bullfone, la convocazione della scorsa settimana di Mister Prezzi, delle compagnie delle telecomunicazioni, per cercare di individuare la strada che porti ad un abbattimento dei costi degli SMS, ad una maggiore trasparenza soprattutto sui costi applicati a questi. Secondo lei qual è stato l'esito di questo incontro? Perché molti dei suoi colleghi si sono lamentati, c'è stato un semplice invito alle compagnie ad abbassare i costi, ma nulla di più. Ma l'impressione che si ha è un po' questa, poi anche in questi casi giudicare vale la pena di farlo soprattutto quando si vede che cosa succede nei fatti, quindi di per sé il fatto che Mr. Price abbia convocato gli operatori va benissimo, magari gli ha fatto una strigliata e vabbè, però quello che conta è che si capisca che c'è un problema di concorrenza, perché gli SMS vengono in grandissima parte tariffati a 15 centesimi per quasi tutte le tariffe. Questo significa che evidentemente su questo tema c'è poca concorrenza. La concorrenza viene effettuata quasi esclusivamente mediante delle opzioni aggiuntive, che però sono a pagamento e quindi interessano soltanto alcuni particolari utenti, per cui nei fatti ciò di cui c'è bisogno è che si introduca una maggiore concorrenza tra gli operatori, perché nel momento in cui c'è questa, naturalmente i prezzi scenderanno. Grazie a Marco Bulfon, Altro Consumo, le auguro una buona giornata, presto e buon lavoro. Grazie a voi. Alessandro. Eccoci qua, allora Salva Danaio. Salva Danaio, oggi con la collaborazione dei colleghi del Sole 24 Ore andiamo un po' ad esplorare come funziona Linea Amica, questa linea della pubblica amministrazione telefonica ma anche internet, dove troviamo degli operatori che ci rispondono ai problemi di varia umanità. Li abbiamo messi anche alla prova, abbiamo fatto delle prove sul campo chiamando benissimo. Noi. Benissimo. Eccoci alle 8.32 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Le notizie in primo piano sono queste. Il ministro all'economia Giulio Tremonti attacca ancora le banche. Se il governo per le imprese ce la sta mettendo tutta, le banche devono ancora fare moltissimo, ha detto Tremonti. Ha criticato gli istituti di credito che non si sono ancora serviti dei suoi bond. E a Cernobbio, faccia a faccia tra la presidente di Confindustria Marcegaglia e il leader CGIL Epifani. In un momento difficile come questo, ha detto la leader degli industriali, bisogna far prevalere le cose che ci uniscono rispetto a quelle che ci dividono. Torna a parlare Noemi Letizia, la diciottenne al cui compleanno andò il premier Berlusconi. Chiunque ragioni capisce che non sono io il motivo del divorzio tra lui e Veronica Lario, ha detto Noemi. Lo chiamo Papi perché sono una ragazza dolce. E infine per lo sport, trionfo di Valentino Rossi nel MotoGP a San Marino davanti al suo rivale per il mondiale Lorenzo, mentre per il tennis continua il sogno di Flavia Pennetta, che nella notte ha battuto la russa Zvonareva ed è nei quarti di Flushing Meadows a New York. Tutto questo alle 8.33 minuti e allora è il momento, a partire da oggi dalle 8.30 alle 9, del sondaggio di Radio 24, bianco o nero, il sondaggio. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24 di Alessandro Milan. Eccoci qua, allora, il sondaggio di oggi al quale potete votare, lo state già facendo sul sito di radio24.it o il sole24ore.com, lì andate, trovate bianco o nero, potete rispondere. La domanda è molto semplice, parliamo di influenza A. C'è troppo allarmismo secondo voi? Tra l'altro devo dire che già state rispondendo in molti sul sito di radio24.it. Devo dire, 80% dice sì, c'è troppo allarmismo. Mi ha molto colpito, due giorni fa è morto a Napoli un signore di 50 anni, un signore che stava molto male. Sì, aveva contratto il virus dell'influenza A. I medici hanno detto: guardate che non è quello che ha causato la morte, perché aveva tanti problemi già. Eppure è stato, scrive la stampa, sepolto come un appestato. Al funerale non c'era nessuno. Chi portava la bara aveva la mascherina. Il parroco ha detto: non ho mai visto un qualcosa del genere. E poi che succede? Che c'è chi fa i palinsesti, magari è intelligente, magari è geniale, magari è un genio del male. E su Rai 3 mi è capitato un paio di giorni fa di assistere in prima serata a questo spot tranquillizzante. Papà. Soli, spaventati. C'è un'epidemia di influenza. Ma allora il vaccino? Non esiste, è una bugia per evitare che il panico si diffonda. In un mondo devastato. Il primo ministro è morto pochi minuti fa. Tutti i cellulari, i computer, è tutto scomparso. Riusciranno a sopravvivere? Alla vita. Da questa sera alle 21.10 in esclusiva su Rai 3, Survivors. La fine non è che l'inizio. Eccoci qua. Sopravvivremo. Roberto Volpi, buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Lei è statistico sanitario, scrive anche sul Foglio, scrive libri. L'ultimo è L'amara medicina, scritto da, edito da Mondadori. Lei che dice, sopravvivrà, sopravvivremo? Oh, sopravvivremo alla grande, alla grandissima. Questa è davvero una quasi completamente un'invenzione mediatica, come ormai si capisce bene. Il virus è penetrato in Italia 4 mesi fa. In 4 mesi si dice che abbia fatto 1800 casi in 4 mesi, il che vuol dire che attualmente ci saranno allettati 50-100 persone in tutta Italia. Non c'è stato un caso di complicazione, non un morto, perché voglio dire, quello che è morto, lei l'ha detto, era un cardiopatico grave, gravissimo diabetico, aveva un'alterazione renale. I medici hanno detto in pratica che l'influenza A c'entrava come il cavolo a merenda. Il professor Garattini, che è il più illustre farmacologo italiano, che è qua con noi e l'ascolta. Perfetto, di fronte a questa, come dire, a questa influenza che ha sollevato e sta sollevando questo enorme scalpore, non fa che dire, attenzione, si tratta di una ordinaria e modesta forma influenzale. Però è un parlare al vento, perché tutti i giornali ci dedicano tutti i giorni 3-4 articoli. Io avevo fatto un conto poco tempo fa, considerando il numero delle televisioni, delle radio, dei giornali, eccetera, che ci fossero non meno di 100 articoli per ogni caso che c'era stato in Italia. Anche oggi, il rischio psicosi, scrive il giornale, l'altro là dei medici, fedeli, non baciate le statue, ma lei ha detto un'invenzione mediatica addirittura, un'invenzione mediatica mi sembra. Ma anche non questa. È della gravità. Il virus c'è, cioè, non a caso ripreso le parole molto spesso del professor Garattini, cioè è un'invenzione mediatica nella sua gravità, in questa sua diffusività che non c'è. Professor Garattini, eccoci qua. Tra l'altro, buongiorno professore. Tra l'altro io voglio ricordare la mail anche bianco-nero@radio24.it. Professore, questa psicosi c'è, lei la coglie? Che effetto le fa vedere lei che studia questi temi, a sentire che per esempio questa persona è stata accompagnata ai funerali con nessuno che ha toccato la bara, dicono i giornalisti presenti, neanche la madre ha toccato la bara, e chi la portava aveva le mascherine. È una precauzione giusta o siamo a livello di psicosi esagerata? Ma certamente è una grande esagerazione, perché, come è stato detto, finora, fino a questo momento, questa influenza è una influenza paragonabile alle influenze stagionali. Certo è vero che i mass media contribuiscono a rendere troppo enfatica la gravità di questa infezione, perché le informazioni vanno date in modo corretto. Io ho visto sui giornali il primo morto per influenza H1N1 sui titoli. Poi quando si legge, non tutti leggono, c'è scritto che questo aveva gravi problemi renali, aveva avuto un infarto, era diabetico, aveva problemi respiratori. È chiaro che questo non è poi il frutto dell'influenza. L'influenza è un fattore aggravante, ma non fa altro che quello che ha sempre fatto l'influenza stagionale, cioè che è pericolosa per coloro che hanno già delle malattie, che hanno già dei gravi problemi di salute. Quindi se l'informazione fosse stata data correttamente, non si sarebbe dovuto mettere nei titoli che è il primo morto per influenza. Sì, in realtà poi dopo è stato un po' specificato, però effettivamente Ma è specificato nel testo, ma la gente si ferma molto spesso alla lettura dei titoli e quindi prende paura. Ah sì, ma come si leggeva nei giornali nei giorni scorsi, effettivamente è nato anche questo meccanismo mediatico per cui scriveva qualcuno che aspettare il primo morto, insomma, era quasi un modo crudele di ammazzare il tempo per i mostri, i giornalisti che erano lì a Napoli proprio in attesa di dire ecco il paziente zero, ecco il paziente uno. Ecco, devo anche dire che questo dimostra purtroppo che la cultura scientifica non è molto diffusa in Italia, perché il fatto che ci sia la credenza che andare al funerale di uno che è morto per una infezione possa infettare, veramente vuol dire che si sa molto poco della diffusione delle infezioni. Ma altro che funerale, c'era la gente che assediava l'ospedale Cotugno dove è morto questo povero signore, a dire che tra l'altro era l'ospedale del colera, raccontava Marco Marisio in un bel articolo un paio di giorni fa, ovviamente di tanti anni fa, a dire dottore ce la faremo, siamo contagiati anche noi, chi lo sa. Intanto io voglio ricordare radio24.it per votare al nostro sondaggio bianco o nero, che ne pensate? C'è troppo allarmismo per quel che riguarda l'influenza A? Devo dire che sia sul sito della radio che sul sito del Sole arrivano i voti e in genere io do così, la do, poi cambio ovviamente le percentuali minuto dopo minuto, ma siamo sull'80% di persone che dicono che effettivamente sì, c'è troppo allarmismo. Voglio salutare anche Roberto Bertollini, che è coordinatore del Dipartimento di Sanità Pubblica all'OMS di Ginevra. Professor Bertollini, buongiorno. Buongiorno. Grazie, perché so che la prendiamo tra un aereo e l'altro in aeroporto. Il tema è questo: c'è troppo allarmismo. L'OMS di Ginevra un paio o tre mesi fa, credo, ha detto sostanzialmente che si tratta effettivamente di pandemia. Il termine potrebbe spaventare. Che vuol dire che questa è una pandemia? Ma il termine vuol dire semplicemente che questa è una malattia a cui la stragrande maggioranza della popolazione che vive oggi nel mondo è suscettibile, perché si tratta di un virus nuovo a cui la popolazione non è mai stata esposta, e quindi da questo punto di vista il termine pandemia indica soltanto la probabilità che una persona si infetti, cioè la probabilità molto elevata che le persone siano colpite da questa malattia, ma non ha nessuna valutazione di gravità. Tra l'altro, professore, un altro tema è questo: il vaccino ci aiuti a capire qualcosa? Perché tra l'altro qua c'è anche il professor Volpi, che so tra poco coinvolgerò, credo sia un po' critico su questo. Oggi leggo il vice ministro Fazio alla salute, vice ministro italiano: sono già pronte presto forse le prime 500.000 dosi di vaccino dalla Cina. Hanno detto noi il vaccino l'abbiamo già fatto, e appena l'hanno detto ovviamente la società ha visto schizzare a Wall Street le proprie azioni in alto. È un grande business, è un grande affare, o ci vuole e lo stiamo attendendo? Ma guardi, ovviamente si tratta di un prodotto che ovviamente ha una sua componente commerciale, sarebbe sciocco e anche piuttosto miope nasconderselo. Sta di fatto però che i vaccini sono uno degli strumenti più importanti per controllare la diffusione della malattia, e quindi in questo caso particolare il vaccino può sostanzialmente proteggere la popolazione suscettibile da questa forma, specialmente le persone che sono più vulnerabili. Sono alcuni gruppi di popolazione che sono stati già più volte descritti, quindi appunto i più giovani, alcune persone affette a malattie croniche eccetera, che possono avere una reazione più forte a questa malattia e quindi avere anche delle complicazioni polmonari che possono portare poi a delle conseguenze anche gravi. Quindi voglio dire, il vaccino è un prodotto che è indispensabile per la sanità pubblica in generale, non soltanto per l'influenza, per molte altre cose. Sarebbe, professor Garattini, so che è in linea, insomma, sarebbe molto importante per esempio che in Italia si facesse di più la vaccinazione contro il morbillo, si facessero altre cose che invece sono importanti parimenti a quella della vaccinazione contro l'influenza. Tra un attimo ci arriviamo. Professor Volpi, lei anche sul vaccino, so che ha qualcosa da ridire, sì, abbastanza critica, no? Ma guardi, cominciamo col dire una cosa, perché altrimenti non ci capiamo. Penso proprio che davvero non ci capiamo. Ma il problema è questo: i vaccini. Chi ha mai sperimentato sul campo l'efficacia di un vaccino antinfluenzale? Cioè, noi ci accingiamo a prendere 25 milioni di dosi e a somministrarle. Ma non c'è nessun esperimento previsto per capire che cosa facciano questi 25 milioni di dosi. Non c'è mai stato uno studio per capire che cosa fa un vaccino anti-influenzale. E allora, a questo proposito, le leggo che cosa dice l'Istituto Superiore di Sanità, cioè la nostra massima autorità sanitaria, nel protocollo operativo della sorveglianza epidemiologica e virologica. Scrive l'Istituto Superiore di Sanità a pagina 8: l'epidemiologia, ovvero, dico io, la diffusione dell'influenza, è fortemente influenzata dalla capacità dei virus influenzali di mutare rapidamente le caratteristiche antigeniche. Tali variazioni permettono al virus di superare le barriere anticorpali che si oppongono alla sua circolazione, vanificando l'immunità conseguente alla vaccinazione. Aggiungo io, in altre parole, i virus cambiano rapidissimamente, cosicché un vaccino che è efficace in laboratorio non è detto affatto che lo sia sul campo, in quanto è tarato su di un virus che ha molte probabilità di cambiare nel frattempo. Oltretutto aggiungo che a testare l'efficacia contro il virus in laboratorio non è testare l'efficacia contro gli esseri umani nella popolazione, sì, che sono soggetti a ben altri fattori. Come mai non si fa mai niente in questo senso? Dico mai niente. Il suo scetticismo è chiaro, devo dare il traffico. Poi rientriamo con anche il professor Garattini, magari sul vaccino, ovviamente interessante la sua posizione. Per votare bianco o nero, influenza A, c'è troppo allarmismo, sì o no? Andate sul sito radio24.it oppure chiamate se volete intervenire all'800 24 00 24. Bianco o nero, il sondaggio di Radio 24. Eccoci qui, il sondaggio di Radio 24, influenza A, c'è troppo allarmismo, sì o no, che ne pensate? Andate sul sito di Radio 24 o sul sito del sole24ore.com, ci sono con noi il professor Roberto Volpi, Roberto Bertolini, Silvio Garattini. Ma voglio salutare Carlo Rossella. Rossella, buongiorno. Buongiorno. Presidente della Medusa Film, immagino la troviamo a Venezia. Ho letto una sua intervista sulla stampa. Lei, riassumendola, va in giro con la mucchina, non tocca le maniglie, non tocca niente, non tocca le persone. Se arriva qualcuno, non bacio. Se arriva qualcuno dal Sud America, baci italiani, ciao, come stai? Baci, zero proprio. Lei mi permette, è un caso disperato. Ma io sono terrorizzato sempre dal virus, da queste cose già. Si pigliano le malattie naturalmente, figuriamoci se poi c'è in giro un virus, perché uno deve stare bloccato 15 giorni se può farne a meno. Poi magari ti viene lo stesso, però preferisco prevenire. Però, la prevenzione ci insegnano i medici, anche tutti quegli illustri scienziati che state sentendo stamattina, è la cosa principale. La prevenzione sì, ma non c'è il rischio di fare anche, visto che lei è un uomo di informazione in primo piano, anche di rischiare di fare un po' di psicosi, di terrorismo? Ma no, non è una questione di psicosi, è una questione di prevenire. Cioè, io vedo la gente, ad esempio, in America gira molto con le mascherine in certi ambienti, eccetera. Adesso poi ci sarà il ritorno in ufficio e l'aria condizionata, che quest'aria dei palazzi è riciclata, per cui quello è il pericolo vero. Perché la gente figlia le malattie lì, che ad esempio in Argentina e in altri paesi c'è stata una diffusione più intensa, perché con l'aria condizionata, a causa anche di sistemi di aria condizionata che non puliscono l'aria ma che la raffreddano soltanto. Il sistema deve essere pulente, disinfettante e non soltanto raffreddante o riscaldante. Invece si circola, continua a circolare la stessa aria condizionata, che è quella dei gabinetti, delle cose, eccetera, una cosa orrenda. Lei dice, se arriva uno dal Sud America io per qualche giorno gli sto lontano. Sì, ma certo che gli sto lontano. Quelli miei amici che sono andati in vacanza in Argentina mi hanno invitato una sera a cena, mi hanno detto, guardate ragazzi, decontaminatevi e poi ci vediamo, fate un po' di quarantena. Ma io le dico, sono andato in Grecia, sono atterrato all'aeroporto di Rodi, perché devo prendere una barca per andare a Simi, bene, e lì ci sono tutte queste macchine fotografiche, un sistema di controllo che ti misurano la febbre appena gli passi davanti. Cioè, in Italia queste cose non le ho viste ormai. Io vorrei vederle. Professor Garattini, vuole dire, Carlo Rossella, cos'è? Fa bene la prevenzione oppure... La prevenzione è molto utile ed è importante, non deve diventare maniacale ovviamente, ma deve essere un atteggiamento che appunto evita tutte le situazioni che possono comportare una possibilità di infezione. Però anche questa storia dei baci, perché Carlo Rossella, lei ha detto anche ai fidanzati, non baciatevi, ma come? Cioè, voglio dire, Rossella, come si fa a non baciarsi? Uno va in Inghilterra, ad esempio in Spagna hanno consigliato il Ministero della Spagnolo di non baciarsi. Sì, e lo stesso è avvenuto anche in Inghilterra, attenti ai baci, cioè bisogna evitare... No, non lo dico alla signora, ne porti uno anche a me, signora. Bisogna evitare la contaminazione, capisce? Sì, sì, sì, no, questo sì. La lasciamo al caffè, cosa sta prendendo a colazione? No, non tocchi la tazzina. Un caffè, e tocca la tazzina, tocca la tazzina. La tocca la tazzina, sì. No, un sistema vero. No, la tazzina la tocco, ma le tazzine sono messe nel disinfettare nell'acqua, nel coso bollente, sì, nelle sì. Nella lavatrice. Non certo, certo. No, io la ringrazio, Rossella, la lascio ovviamente anche a Venezia. Sì, avanti con la prevenzione, non si tratta di allarmismo, si tratta di prevenire, dai dei consigli, delle liste, delle cose, perché ovviamente questo è un virus molto fastidioso, ti tiene bloccato per 15 giorni, e sa, uno che deve lavorare ha l'incubo di restare fregato. Questo sì. Vediamo, c'è un ascoltatore all'800 24 00 24. Grazie Rossella. Damiano da Ferrara, buongiorno. Sì, buongiorno. Sia buongiorno sintetico, dica da che parte si schiera, bianco o nero? Beh, io mi schiero a favore di quelli che dicono che c'è grande allarmismo e ovviamente anche grande speculazione. Ma perché adesso io personalmente sono una persona normalissima, faccio il rappresentante, 38 anni, tutti gli anni un raffreddore che a volte può avere anche bisogno di un mezzo scatola di antibiotico, me lo prendo, però vaccini non ne ho mai fatti, anche perché penso che meno medicinali si prendono e più le difese immunitarie personali della persona rimangono alte. Io per dire, ho anche un collega di lavoro che sua figlia che ha 2 anni e 1 anno che va avanti ad antibiotici. Io gli ho consigliato, ma prova a cambiare medico. Lei è contrario insomma ai troppi medicinali, insomma c'è allarmismo. C'è allarmismo e c'è abuso anche. Io sento anche delle persone che dicono: quel dottore lì non mi piace perché non mi ha dato neanche un medicinale. Come si fa a dire una cosa del genere? Vabbè, qui c'è anche il professor Garattini che un giorno disse che non so quanta percentuale, ma alta, di medicinali che si producono sono inutili. Professor Garattini, domanda proprio di servizio: io ho 2 figli piccoli di 3 anni e 1 anno, che devo fare? Io come tantissimi, si vaccina, non si vaccina, è giusto, no? Che bisogna fare? Beh, normalmente bisogna fare quello che si è sempre fatto per l'influenza stagionale. In questo caso bisognerà vedere che cosa succede, cioè noi non abbiamo in questo momento delle indicazioni precise perché non sappiamo che cosa succederà. Certamente vaccinare i bambini può essere utile, ma in un secondo tempo, anche perché inizialmente non ci sarà il vaccino sufficiente per vaccinare tutti. In un primo tempo il vaccino dovrà essere dato in rapporto con le priorità che stabilirà il Ministero, certo, della Salute. Quando ci sarà il vaccino, perché ancora non c'è. E quando ci sarà il vaccino in quantità adeguate, perché diciamo prima di tutto bisognerà vaccinare gli operatori sanitari, coloro che sono importanti per i servizi pubblici, non tanto perché l'influenza sia così grave, ma per far sì che possano essere in grado, certo, di funzionare e di poter aiutare soprattutto gli ammalati. Sì, sono quelli che devono stare, quello che devono stare in salute, insomma. Io mi devo fermare e intanto ringrazio tutti. Voglio ricordare che sul sito radio24.it e sole24ore.com rimane il sondaggio. Andate lì, cliccate, rispondete bianco o nero. Siamo per ora sull'80% dice che c'è troppo allarmismo, effettivamente il 20% più o meno dice di no. Le seguiremo tutta la mattinata, poi alle 13 vi daremo i risultati. Intanto ringrazio tutti, do la linea a Oscar Giannino che oggi ritorna con 9 in punto e noi ci sentiamo domani.